kan bina kapa kapa kapa de bata el me baby ku elman toi va tai a torno sauna notte le sarà ancora e va sacchi batteria e va calan coi sanchi Oh, so light of dawn.